Secondo la scrittura, il peccato è la violazione alla legge di Dio. Anche se di peccati ne esistono di vari tipi, cioè quelli rivolti verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi, il peccato in definitiva è uno solo, una ribellione alla volontà di Dio. Poiché i cristiani da sempre credono in un unico Dio, nel quale sussistono tre persone partecipi della stessa natura, ma distinte come personalità, il peccato è rivolto a tutte e tre le persone. Dato che generalmente quando affermiamo che il peccato è rivolto verso Dio nella nostra mente abbiamo una trasgressione nei confronti del padre o del figlio, è opportuno soffermarci e considerare anche i peccati che sono rivolti verso la persona dello Spirito Santo. Uno studio in merito ai peccati contro la persona dello Spirito Santo non è molto comune, proprio perché la persona dello Spirito Santo per molti non è ben definita. Per quanto ci sforziamo a pensare allo Spirito Santo nella nostra mente, condizionata dalla nostra cultura e da eresie di perdizione, 2 Pietro 2, 1, facciamo molta fatica a considerare lo Spirito Santo una persona uguale al Padre e al Figlio. Infatti, molti di coloro che nei loro scritti fanno riferimento allo Spirito di Dio, danno l'impressione di concepirlo più come un influsso che si diffonde nella Chiesa, oppure come un modo di agire divino, che non come una persona. Inoltre, i termini usati per parlarne denotano spesso una certa imprecisione di pensiero e di opinione teologica. La ragione di tanta confusione sta nel fatto che, da un lato, utilizziamo la parola persona per indicare chi ha una natura umana, chi possiede un corpo materiale e un'anima immateriale. Dall'altro lato, parliamo dello spirito dei nostri tempi, o di uno spirito collegiale, modi di dire che danno il significato neutrale alla parola spirito. Proprio per questo, la persona dello Spirito Santo è la più sconosciuta e dimenticata. Perciò prendere in esame i peccati contro la persona dello Spirito Santo è opportuno non solo per avvertire il credente e l'incredulo di non cadere in questo errore, ma anche per onorare lo Spirito come persona. Infatti, non avrebbe proprio senso parlare dei peccati contro lo Spirito Santo se lo Spirito fosse solo una influenza o una forza impersonale di Dio. Se desideriamo definire la caratteristica della vita cristiana nel modo più succinto possibile, la possiamo definire con una sola espressione: è una vita condotta dalla persona dello Spirito Santo. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, i primi 8 versetti. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Lo spirito spira dove vuole e tu ne odi la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Secondo Gesù, essere condotti dalla persona dello Spirito Santo è una situazione esattamente contraria ai nostri impulsi. Mentre noi desideriamo una vita senza tante novità o scossoni, mentre siamo inclinati alla ripetibilità, colui che è condotto dallo Spirito non sa mai cosa gli aspetta. Ho letto un libro dove l'autore aveva una ricetta sicura per ogni cosa: come riuscire in tutto, come smettere di bere, come smettere di giocare d'azzardo, come ottenere di più con il nostro denaro, come liberarsi da una schiena dolorante, come smettere di fumare, come evitare gli incidenti d'auto, come essere un predicatore perfetto. Ottimi spunti, ma l'autore aveva dimenticato una cosa: l'imprevedibilità della persona dello Spirito Santo. Quando leggiamo nella scrittura come Dio ha operato, rimaniamo sconcertati della sua imprevedibilità. Non chi è un'opera che abbia fatto uguale. E cun se sufficiente guardare gli animali e gli uomini. Proprio perché la nostra natura è contraria ai principi di Dio, le soluzioni sono due. O si agisce per la carne, cioè mediante i nostri istinti naturali, o per lo spirito. Essere condotti dalla persona dello spirito non è una prerogativa di alcuni credenti, ma l'indispensabile vivere di ogni cristiano che vuole essere santo nel cospetto di Dio. Così, il credente che non si sottopone volontariamente è pienamente all'azione dello Spirito Santo è disubbidiente. All'ordine di Dio non è ripieno dello Spirito Santo. Per questo motivo, per il fatto cioè che la pienezza dello Spirito Santo dipende dalla nostra volontà di sottomissione alla sua persona, chi chiede di ricevere lo Spirito o essere ripieno di lui per ricevere più potenza, o alcuni doni, scambia la persona dello Spirito di Dio con una forza o una distributrice di beni. Essere ripieni dello Spirito Santo, Efesini 5:18, o lasciatevi riempire di Spirito Santo come traducono altri, non significa che lo Spirito sia come un liquido che più ne versi e più un recipiente è pieno, ma il senso è che la persona dello Spirito Santo deve avere il totale controllo sul credente, così pure il battesimo, nello Spirito Santo, Marco 1:8, Atti 1:5, 11 e 16, 1 Corinzi mezzogiorno e 13. La scrittura non dice che il credente è battezzato con lo Spirito Santo, come se lo Spirito di Dio fosse un liquido o qualcosa di altro che Dio manda sulle persone, ma il credente è battezzato nello Spirito, cioè una immersione totale nella persona dello Spirito Santo. Esperienza, questa, fatta una volta per sempre, con la nuova nascita e mediante la quale si riceve la natura divina. 2 Pietro 1:4. Secondo la scrittura lo Spirito Santo è una delle tre persone della Trinità, chiamato anche Consolatore, cioè Consigliere. I cristiani, fin dal primo secolo, credevano in un solo Dio nel quale sussistono tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. Senza questa fede non ci si può definire cristiani. Se dovessimo spiegare teologicamente perché lo Spirito Santo è una persona, perderemmo l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè parlare dei peccati contro lo Spirito Santo, per cui ci limiteremo a dimostrare che lo Spirito Santo è una persona con un solo episodio, quello del battesimo di Gesù. Ecco cosa leggiamo in Luca 3. 21-22. Ora, come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato, e mentre stava pregando, il cielo si aprì, e lo Spirito Santo scese sopra di lui, in forma corporea come di colomba, e dal cielo venne una voce, che diceva, «Tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto». Questo episodio descritto da Luca, forse sottovalutato, mette in evidenza come lo Spirito Santo abbia un corpo. Prima di fare un commento, leggiamo una traduzione letterale. Accadde che nell'essere tutto il popolo battezzato e dopo che Gesù fu battezzato, mentre lui pregava pregando lui, il cielo si aprì e scese lo Spirito, quello santo, in aspetto corporeo, come colomba, su di lui. E venne una voce dal cielo, «Tu sei il mio figlio?» Prediletto, in te io mi sono compiaciuto, risplendetti. La scena che abbiamo del battesimo di Gesù è la seguente. Dopo che Gesù è stato battezzato, Giovanni vede la persona dello Spirito Santo in forma corporea, cioè una forma che si può avvertire con il senso della vista, che scende su Gesù con la dolcezza di una colomba. Questa lettura dell'episodio è nettamente in contrasto con le immagini che siamo soliti vedere raffigurate, cioè una colomba che scende su Gesù. No. E ci lica la persona dello Spirito Santo che in forma corporale, materiale, scende su Gesù nell'atteggiamento di una colomba. E Giovanni il Battista vede la persona dello Spirito Santo nello stesso modo che stava vedendo Gesù. Una lettura, questa, dell'episodio del battesimo di Gesù che lascia senza fiato, abituati come siamo a considerare lo Spirito di Dio visibile in una colomba. Lo Spirito Santo, il Consolatore, dunque è una persona a tutti gli effetti, non solo per la sua corporeità, ma perché possiede le importanti caratteristiche che solo una persona possiede: intelligenza, capacità di riflessione, sentimento, volontà, autocoscienza. Proprio per queste caratteristiche, come noi possiamo commettere dei peccati contro una persona umana, così possiamo commettere peccati contro la persona dello Spirito Santo. Se lo Spirito di Cristo non fosse una persona, non si potrebbero compiere verso di lei dei peccati, dei torti. L'uomo non potrebbe essere colpevole nei suoi confronti. Proprio perché lo Spirito Santo è una persona delle tre persone della Trinità, nei suoi confronti possiamo commettere delle colpe, peccati, che nel nostro studio ne ravviseremo 7, mentre nel cattolicesimo i peccati sono 6. 1. Disperazione della salvezza. 2. Presunzione di salvarsi senza merito. 3. Impugnare la verità conosciuta. 4. Invidia della grazia altrui. 5. Ostinazione dei peccati. 6. Impenitenza finale. Catechismo maggiore promulgato da San Pio X. L'assurdità del secondo punto ci induce con un atto di carità a non approfondire ogni aspetto. Certo, poiché lo Spirito Santo è partecipe della stessa natura divina del Padre e del Figlio, i peccati contro la persona dello Spirito Santo sono peccati anche verso le altre persone della Trinità, ma poiché la Scrittura cita certi peccati in specifico riferimento allo Spirito di Dio, allora significa che certi atteggiamenti di colpevolezza riguardano solo lo Spirito Santo. Una prova di ciò che stiamo dicendo lo conferma. Gesù, quando disse che ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata, e chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Matteo mezzogiorno e 31. Dunque Gesù fece distinzione tra i peccati commessi verso di lui e quelli commessi nei confronti della persona dello Spirito Santo. È vero che il peccato contro lo Spirito Santo è unico e irripetibile e non è da confondersi con gli altri, ma ciò che Gesù ha detto mette in evidenza che non possiamo fare di tutte le erbe un fascio, cioè non possiamo generalizzare i peccati considerandoli solo rivolti verso Dio, intendendo con il termine Dio il Padre o la Trinità. Chi desidera onorare la persona dello Spirito Santo non deve solo riconoscere che è una delle tre persone della Trinità, ma deve pure riconoscere che certi peccati sono rivolti direttamente a lei. Deve pentirsi. Non conosco una dottrina che insegni di rivolgersi direttamente allo Spirito Santo per accettare il perdono. Ma quando si è presa coscienza di peccare contro la persona dello Spirito di Dio, allora è inevitabile, come per qualsiasi persona offesa, riconoscere la colpa, confessare la colpa e accettare il perdono già attuato. Esaminiamo dunque alla luce della parola di Dio i 7 peccati di cui l'uomo si può rendere colpevole nei confronti della persona dello Spirito Santo e che possono rallentare, se non bloccare per sempre, la vita di un credente. I peccati sono: 1. Resisterle, Atti 7:51. 2. Contristarla, Efesini 4:5, Isaia 63:10. 3. Tentarla, Atti 5:9. 4. Spegnerla, 1 Tessalonicesi 5:19. 5. Mentirle, Atti 5:3. 6. Oltraggiarla, Ebrei 10:29. 7. Bestemmiarla, Matteo mezzogiorno 31. Prendiamo in esame ogni peccato. 1. Resistere alla persona di dubbio, poiché per essere una persona con una individualità occorre volontà, riflessione, sentimento, autocoscienza. La persona dello Spirito Santo agisce in modo intelligente nel cuore e nelle menti degli esseri umani. Proprio perché lo Spirito Santo ha questa azione continua e amorosa, il salmista disse: «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, cerco la tua faccia, o Eterno», Salmo 27:8. Tutti noi a volte abbiamo degli impulsi che non sappiamo identificare. Non sappiamo se sono giusti o no, non sappiamo se siamo ispirati positivamente oppure no. A volte li ignoriamo, altre volte li assecondiamo per poi scoprire che eventualmente non erano buoni. Anche se sono passati dei millenni, l'uomo è sempre quello, perciò anche i credenti prima di Cristo avevano degli impulsi che non sempre sapevano comprendere. Il re Davide ha espresso due verità che costituiscono i due pilastri sui quali si deve costruire ogni riflessione in merito al tema della soteriologia, cioè della salvezza dell'uomo. Davide aveva il desiderio di cercare l'Eterno, o meglio la sua faccia, cioè quello che egli è, e non aveva dubbi che ciò provenisse da lui. Come può un uomo corrotto cercare ciò che è perfetto? Come può un uomo depravato avere qualche sentimento positivo verso Dio? Queste sono domande che alcuni teologi si pongono cercando di dimostrare che la salvezza è una grazia che Dio concede solo ad alcuni. Ma Davide lo dice chiaramente. Chi cerca l'Eterno è perché lui tramite il suo spirito ha messo nel suo cuore tale sentimento. Perciò il problema non sarebbe perché alcuni cercano Dio oppure no, ma se l'Eterno vuole che tutti gli uomini siano salvati. Una cosa è certa, non vi è nessun riferimento nella Scrittura che l'Eterno voglia che alcune persone siano perdute. Anzi, l'Eterno non trova piacere nella morte dell'empio, Ezechiele 18:23. È vero che Gesù ha detto che nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ma si è espresso così non per dire che il Padre attira solo alcuni, ma per dimostrare che la chiamata alla salvezza è solamente per grazia mediante la fede, che la salvezza è una iniziativa e un'opera esclusiva di Dio. Perciò, se sentiamo nel nostro cuore la necessità di occuparci della nostra anima in modo particolare, se avvertiamo il desiderio di conoscere Dio tramite Gesù Cristo, questo sentimento è l'opera della persona dello Spirito Santo e non di un sentimento o convincimento umano. Cercare Dio è un'attività spirituale, e tutto ciò che proviene dallo Spirito è da Dio. Proprio perché siamo insanabilmente corrotti, dobbiamo accettare che il bene proceda solo dalla Santissima Persona dello Spirito Santo. Se l'uomo può resistere alla persona dello Spirito Santo, significa che essa fa una certa pressione sulla volontà dell'uomo. Non dobbiamo credere che il regno di Dio avanzi per forza d'inerzia, ma tutto si svolge per la precisa determinata volontà di Dio. Un giorno Gesù disse: «La messa è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe». Luca 10:2. Gesù non ha detto di pregare il Signore della messe perché chiami degli operai nella sua messe, ma egli ha usato il verbo spingere. Il verbo spingere dà l'idea di qualcuno che a forza obbliga un oggetto o una persona a muoversi in una certa direzione. Applicato alla vita, significa che una persona è costretta dalle circostanze ad agire in un certo modo. Infatti, così commenta l'ebreo Martin Goldsmith nel suo libro Le relazioni interpersonali di Gesù. Il termine tradotto con spingere è un'espressione violenta che significa letteralmente scagliare fuori, il che implica che le persone possono essere naturalmente restie a pagare il prezzo di abnegazione richiesto. Nella parola di Dio abbiamo molti esempi nel quali l'Eterno, con braccio potente, obbliga alcune persone a servirlo. Pensiamo a Paolo, l'apostolo dei Gentili, che Cristo Gesù ha fatto cadere da cavallo e reso cieco. Vi è Mosè, che ricalcitrava alla chiamata di liberare il popolo di Israele, ha avanzato tante ragioni per non andare in Egitto, ma alla fine è partito forse di mala voglia. In seguito vi è l'episodio enigmatico nel quale l'Eterno cerca di farlo morire, ma dopo tutte queste difficoltà, Mosè diventerà uno strumento valido per l'Eterno. Molti profeti dell'Eterno hanno avanzato delle ragioni per non servire la loro divinità nel ministero di profeta, ma costretti dalle circostanze hanno portato avanti il loro compito. Alcuni profeti, per aver resistito alla persona dello Spirito Santo, sono morti, altri sono stati messi da parte. Così è ancora oggi. L'Eterno Dio prepara, fin dalla nascita, uomini e donne al suo servizio mediante le circostanze della vita, circostanze a volte comuni, altre volte drammatiche, ma tutte volte a prepararli per il regno di Dio. Noi abbiamo la brutta abitudine di considerare eventi drammatici o vite semidistrutte come episodi inservibili nel regno di Dio Eppure molte testimonianze confermano che Dio ha guidato ogni particolare della loro vita per spingere in seguito queste persone nella messe di Dio. Noi siamo il risultato del passato, portiamo i segni positivi e negativi delle esperienze giovanili e la persona dello Spirito. Santo usa la personalità che abbiamo formata per un particolare ruolo nel regno di Dio. Nel libro degli Atti viene ricordata la morte cruenta del primo martire Stefano. È facile pensare che, se fossimo stati presenti, avremmo reagito diversamente, ma il discorso di Stefano prima di morire aveva provocato negli scribi e farisei una rabbia non indifferente, proprio perché li aveva accusati di resistere alla persona dello Spirito Santo. Ecco una parte del suo discorso. L'Altissimo, però, non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Atti 7, 48-53. Dio, mediante la Santissima Persona dello Spirito Santo, stava convincendo di peccato gli scribi e farisei. Ma essi le porsero resistenza, si opposero all'azione divina. Questo è il tipico atteggiamento di tutti coloro che odono la parola di Dio e non ubbidiscono. La storia del popolo di Israele è tristemente famosa per il loro insistente rifiuto al volere dell'Eterno. Il peccato di resistere alla Santa Persona dello Spirito è spesso commesso non solo dai non credenti, ma pure da coloro che vivono in seno alla Chiesa. La Bibbia fa luce su come si deve vivere da cristiani, coloro che rifiutano di ubbidire ad Ad. Essa si costituiscono debitori, Proverbi 13 e 13. Affermare di credere alla parola di Dio e non prestare attenzione alle direttive di essa significa resistere alla persona dello Spirito del Dio vivente. I giudei perseguitarono i profeti e li uccisero. Oggi la Chiesa non perseguita e non uccide letteralmente chi parla da parte di Dio, ma come si può commettere adulterio con solo lo sguardo? Come si può uccidere solo con l'ira? Così si può uccidere chi parla da parte di Dio con il rifiuto di una vita adeguata al messaggio del Vangelo. Ancora oggi vi sono predicatori che predicano un ritorno a Cristo, ma chi ascolta continua a camminare nelle stesse vie. Ci sono persone che versano lacrime di amarezza e rimorso senza mai fare un passo decisivo verso Gesù Cristo. Queste persone vanno in estasi su qualche argomento spirituale, ma alla fine della loro esperienza emotiva essi si trovano esattamente dove erano prima che lo Spirito avesse operato in loro. Questa realtà è più comune di quanto si pensi. Sta scritto nella parola di Dio che se noi resistiamo a Dio, Egli ci resiste, che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, che Egli schernisce gli schernitori ma fa grazia agli umili. Quando si resiste alla persona dello Spirito per l'incredulo, il risultato è la perdizione. Per il credente, invece, non rimane che una vita vissuta secondo i suoi parametri umani. Chi ha posto fede in Gesù Cristo, quale Salvatore e Signore, non dovrebbe mai dimenticare il grande dono di possedere per sempre la persona dello Spirito Santo, persona che Ibes ha la possibilità di essere sempre in comunione con Dio. Mentre prima della venuta di Gesù lo Spirito Santo veniva dato agli uomini per uno speciale compito e tolto, Salmo 51, 11, ora chi accetta l'Evangelo viene immerso nel corpo di Cristo. Mediante il battesimo della persona dello Spirito Santo, Romani 6, 3, fa parte della Chiesa, 1 Corinzi, Mezzogiorno 13, è partecipe della natura divina delle tre persone della Trinità, 2 Pietro 1, 4 Giovanni 14 e 23 e 16, ha un sigillo di appartenenza a Dio, Efesini 1 e 13, e il Consolatore secondo la promessa di Gesù. Questa esperienza è irreversibile perché Il credente è passato dalla morte alla vita, Giovanni 5:24, perciò preghiere e canti dove si esprime a Dio. Il desiderio di ricevere lo Spirito Santo, come quelle nelle quali si chiede di non esserne privati, mancano di fede nelle promesse di Dio. Il credente non deve aver paura di perdere il dono dello Spirito Santo, quasi perdesse la potenza di Dio come pensano alcuni, ma deve avere l'obiettivo di non resistere all'azione di ravvedimento e santificazione promosso dalla persona amabile dello Spirito Santo. Vi sono credenti che danno un'importanza esagerata allo Spirito Santo non perché vedano in esso una persona, ma perché sono ambiziosi di potere, sono attratti dai doni influenti della predicazione di guarigioni e parlare in lingue, come mezzi per affermarsi. Nulla di nuovo. Anche i credenti di Corinto desideravano ardentemente i doni dello Spirito Santo, ma il loro rapporto di comunione con la persona divina dello Spirito era quasi inesistente. La persona dello Spirito non è un oggetto o uno strumento da usare, piuttosto è da amare e da servire come persona, come Dio. Quando si cerca smisuratamente la potenza dello Spirito vi è una maschera per l'ambizione personale, un desiderio di servire la nostra presunzione, di impressionare, di dominare. Si dimentica che essere partecipi dello Spirito Santo non è sinonimo né di salvezza né di santità. Ebrei 6, 4 Giovanni 11 e 51. Chi è in grado di comprendere il nostro cuore insanabilmente? Malvagio. Vi sono vari modi per resistere alla persona dello Spirito di Dio e uno di questi è certamente quello di non accettare e vivere per fede le promesse fatte da Lei. Crediamo che la Sua presenza sia sempre con noi perché questo è il primo passo per non resisterle. 2. Contristare la persona dello Spirito Santo. Qualcuno ha detto che il 90% dei credenti vive una vita di sconfitte, eppure Dio ha fatto delle straordinarie promesse, la certezza del suo amore, la vita eterna, il perdono dei peccati, i beni materiali, la direzione dei propri passi, il segreto della preghiera che ottiene risposta, la promessa di una vita abbondante, l'assicurazione che tutto quello che avviene è per chi ama, per il suo bene, la liberazione dalla tentazione, la vittoria sulla paura, le cause di una vita cristiana povera, trascinata, sono molte e a volte non facilmente individuabili, ma una è certa, tra le cause, vi è quella di contristare la persona dello Spirito Santo. Contristare o rattristare significa rendere triste qualcuno e per renderlo triste occorre agire in modo da dispiacere. Anche questo aspetto dello Spirito Santo mette in evidenza la sua personalità, perché se lo Spirito fosse una forza impersonale, non si potrebbe rattristare. Nessuno ha mai rattristato una forza o del vento. Perciò, contristare lo Spirito è possibile per chiunque, perché ogni persona è oggetto dell'opera della persona dello Spirito Santo, sia che appartenga a Cristo oppure no. Contrista la persona santa dello Spirito colui che si comporta in modo da non pervenire alla luce del Vangelo per conoscere Cristo. Gesù lo ha espresso molto chiaramente. Ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, 19-21. Gesù fa appello alle opere per ottenere la salvezza. Poiché il messaggio del Vangelo è che la salvezza si ottiene senza l'ausilio delle opere, ma per grazia, mediante la fede, occorre comprendere il valore delle opere. Benché l'uomo non possa in nessun modo ottenere la salvezza come ricompensa per una buona vita morale, non può d'altro canto ottenerla senza aver vissuto al massimo delle sue possibilità, secondo i principi di morale e di etica esposti nelle Scritture. Così, è vero che le opere di Dio non sono un mezzo di salvezza, ma esse possono portarci alla comprensione del Vangelo. Chi pratica la verità viene alla luce, chi non la pratica non viene alla luce. Di tutti i peccati di cui si è macchiato il popolo di Israele, quello di non mettere in pratica la verità è stato il principio al quale è venuto meno. Il profeta Isaia più volte ha rivolto l'appello al popolo di Dio di cambiare il loro malsano comportamento e al termine del suo libro rivolge una preghiera all'Eterno. Io ricorderò le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno per tutto ciò che l'Eterno ci ha largito e la grande bontà osata alla casa di Israele, concessa loro secondo le sue compassioni e secondo la sua grande benevolenza. Egli infatti aveva detto, essi sono veramente il mio popolo, figli che non agiranno falsamente, così divenne il loro salvatore. In ogni loro afflizione egli fu afflitto, non un messaggero o un angelo, ma la sua presenza li salvò. Nel suo amore e nella sua compassione li redense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Isaia 63:7-10. Il profeta ha voluto ricordare la bontà dell'Eterno, espressa nel salvare il popolo di Israele in tutte le drammatiche situazioni nelle quali si è trovato. Bontà che ha manifestato nel pensare che il popolo di Israele avrebbe di conseguenza agito bene nel camminare giustamente. Però le cose non andarono così. Non solo Israele non camminò nelle vie dell'Eterno, ma rifiutarono di ascoltare la sua voce e contristarono la persona dello Spirito Santo che parlava loro. Per anni, anzi, per secoli, l'Eterno mandò profeti per supplicare il popolo di Israele di distogliersi dal male e per volgersi al bene. Ma gli israeliti fecero gli orecchi da mercanti e continuarono ostinatamente il loro percorso sbagliato. La persona dello Spirito Santo che non usa violenza ne fu profondamente rattristata, afflitta, e sempre per amore si trasformò in loro nemica favorendo i loro nemici. Per questo, Israele fu trasportato lontano dal suo paese per servire popoli e dei che non avevano mai conosciuto. Questo aspetto ci insegna che lo Spirito Santo, come ogni altra persona, non rimane indifferente ai peccati dell'uomo. Non ha eternamente atteggiamenti favorevoli, ma può anche trasformarsi in nemico qualora la caparbietà di compiere del male sussista. Egli parla, convince, esorta, ma non all'infinito. Ritenere la persona dello spirito di vita sempre e comunque favorevole è uno degli errori che il credente e l'incredulo commettono a loro danno. Dobbiamo comprendere la scrittura come ci è pervenuta e non come vogliamo che sia. È necessario rimarcare che anche il credente può rattristare la persona dello Spirito Santo, perché vi è nell'intimo del cuore di chi ha posto fede in Cristo l'idea che una volta salvato non ci siano più problematiche nei rapporti con Dio. Se il non credente può rattristare la persona dello Spirito Santo, quanto più lo può fare colui che è nato di nuovo perché lo Spirito di Dio abita in lui. Se abita in lui, significa che è sempre presente nel suo cuore, per cui se è facile sbagliare con chi vediamo di rado, quanto più è facile avere delle mancanze con chi è sempre in noi. L'Apostolo Paolo scrisse ai figli di Dio le seguenti parole: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria? Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, Efesini 4:26-32. Come il Signore non ci ha sforzati alla conversione, così non ci obbliga alla santificazione. Dio avrebbe potuto imporci di fare la sua volontà e di non peccare, ma ha ritenuto la nostra libertà più importante della sua potenza. La persona dello Spirito di verità è la guida e la conduttrice di ogni figlio di Dio, Se quando disubbidiamo ad un genitore lo rattristiamo, così è per la persona dello Spirito del Dio vivente. La parola rattristare significa causare afflizione ed è usata in molti passi della Scrittura. Nel contesto del brano, Paolo enumera diverse trasgressioni che rattristano la persona dello Spirito Santo. Egli si riferisce al rubare, al parlare in modo indecente, all'amarezza, ai cattivi sentimenti, al cruccio, all'ira, al clamore e alle parole offensive. Atteggiamenti, questi, che rattristano ogni essere umano. E poiché lo Spirito Santo è una persona, è evidente che tali atteggiamenti sono offensivi anche per lei. Se si considerano dettagliatamente i peccati enumerati da Paolo, si comprende maggiormente perché la persona dello Spirito Santo viene rattristata. Il furto fa parte dell'ottavo comandamento, nel quale l'Eterno richiede d'essere onorato quale unico proprietario di tutto, perché tutto ciò che sta in cielo e in terra è di Dio, 1 Cronache 29:11, rispettando il bene altrui e mettendo al servizio del prossimo quello che Egli ci ha affidato. Siamo chiamati ad amministrare saggiamente ciò che Dio ci concede, tenendo sempre presente che non abbiamo portato nulla nel mondo e che nulla porteremo via. 1 Timoteo 6:1. Per questo, chi ruba rattrista la persona dello Spirito Santo di Dio. Parlare in modo indecente e avere parole offensive significa disonorare la creatura che Dio ha creato e, in secondo luogo, disonorare il creatore che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E, come disprezzare un bellissimo mobile, si disprezza anche chi lo ha costruito. In questo lo Spirito di Dio non può certamente rallegrarsi. Nutrire dell'amarezza e cattivi sentimenti si contrista la persona dello Spirito Santo, perché essa è amore, gioia, pace. Il credente che non ha tali atteggiamenti offende la persona dello Spirito di Dio, poiché è come colui che riceve buone mele e dona agli altri mele marce. Si rattrista il donatore. Qualcuno ha fatto notare che la parola amarezza significa letteralmente uno spirito che da molto tempo si rifiuta di essere riconciliato. Perciò, con l'amarezza si nutrono dei sentimenti negativi in modo da tenerli in vita per parecchio tempo e si rimuginano sulle offese e le ferite che si sono subite nel passato. Simile è il rancore, è un cattivo umore che cuoce a fuoco lento. Perciò rattristare la persona dello spirito significa non seguire la sua guida per ciò che riguarda i nostri sentimenti affettivi e il suo consiglio nell'uso della lingua, cioè delle parole. Per evitare questo peccato occorre essere benevoli, misericordiosi, perdonare il prossimo. E questo è possibile solo se la persona dello Spirito Santo non è un ospite nella nostra vita, ma colei che ha il diritto sulla nostra volontà. Un ospite viene e va, non ha il diritto di comandare, di esigere obbedienza. Quando rattristiamo la persona dello Spirito di Santità, essa sospende la sua azione di ravvedimento nel nostro cuore, si interrompe la nostra comunione con Dio e possiamo ricevere uno spirito di stordimento, Romani 11:8. Subiremo delle sconfitte spirituali, non avremo più potenza per vincere il peccato né gioia nel servire Cristo. Cosa fare per non rattristare la persona dello Spirito di Dio? Dobbiamo confessare il peccato ogni volta che ci rendiamo conto di averlo commesso, credere nel perdono di Dio immediato già ricevuto, nutrire la vita spirituale con la lettura della parola di Dio, la preghiera, la comunione fraterna e la testimonianza della propria fede. Renderemo felici la persona dello Spirito Santo. 3. Tentare la persona dello Spirito Santo. Per comprendere come sia possibile tentare la persona dello Spirito Santo è indispensabile sapere cosa si intenda per tentare. Secondo il vocabolario, tentare significa mettere alla prova qualcuno. Perciò anche questo peccato contro lo Spirito Santo mette in evidenza come lo Spirito sia una persona. Va da sé che non è possibile tentare una cosa impersonale come una forza attiva o qualsiasi altro oggetto inanimato. Anche questa forma di peccato è odiosa perché a nessuno piace essere messo alla prova. Nessuno si trova a suo agio se è costretto a compiere un'azione, anche se buona. Se desidero fare un gesto caritatevole verso qualcuno, mi sento bene e realizzato, ma se mi trovo costretto a compiere lo stesso gesto, tutto il mio essere si ribella perché non proviene dalla mia spontanea volontà, ma da parte di chi con parole o azioni mi costringe. Potrei per varie ragioni non voler compiere ciò che sono indotto a compiere, per cui ogni costrizione si intromette nei miei propositi. Questo, in larghe linee, è ciò che succede quando si tenta la persona dello Spirito Santo. Vi è un episodio nel Nuovo Testamento dove viene messa l'enfasi che lo Spirito Santo viene tentato, quando due coniugi mentono davanti agli apostoli. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto non rimaneva tuo, e il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste cose, Anania cadde e spirò. E una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Or circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. E Pietro le rivolse la parola, dicendo: «Dinni, avete voi venduto il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te». In quel momento ella cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. Così una grande paura venne su tutta la chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Atti 5:1-10. Per prima cosa dobbiamo ringraziare il nostro Dio di questo episodio che è unico nel suo genere. Perché se Dio trattasse i figli di Dio nello stesso modo in cui ha trattato Anania e Saffira, in una comunità ci sarebbero più credenti sepolti che vivi. Purtroppo la menzogna non è una piaga solo in una società senza il timore di Dio, ma è più che mai presente anche in seno alle assemblee formate da coloro che professano Cristo quale loro Salvatore. Non è certamente un'opinione personale, perché anche gli apostoli hanno dovuto comandare i credenti del loro tempo di non mentire. Un brano della lettera agli Efesini è significativo. Questo dunque attesto nel Signore che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù per spogliarvi. Per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4:17-25. Il perciò di Paolo dice molto. L'apostolo prima ricorda ai credenti quello che erano e come si comportavano prima di conoscere Cristo. Poi continua dicendo: perciò, cioè, dato che avete ricevuto uno spirito di santità e verità, bandita la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Il credente non deve mentire a danno degli altri perché ora è diverso, ha una natura nuova mediante l'opera rigeneratrice della persona dello spirito, ma anche perché è fa accento grave parte dello stesso corpo, per cui mentire al fratello significa danneggiare se stessi. Quando si mente e si tenta la persona dello Spirito Santo, la si induce a compiere azioni verso di noi che non vorrebbe compiere. Come Dio non obbliga un incredulo a convertirsi, così non obbliga un credente a lasciarsi santificare. Mettendo in noi lo spirito di santità, avrebbe potuto obbligarci ad abbandonare il male. Ma egli vuole che di nostra volontà abbandoniamo ciò che è contrario al suo volere. La libertà che ci lascia Dio è tale che permette anche che noi tentiamo il Consolatore. È evidente che poiché la persona dello Spirito Santo è partecipe della stessa natura divina con il Padre e il Figlio, si può affermare che quando si tenta Dio, si tenta lo Spirito Santo. Del resto, l'autore della lettera agli Ebrei dice espressamente che gli Israeliti tentarono lo Spirito di Dio. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Ebrei 3, 7 a 9. E, in questo senso che possiamo intendere le parole dell'Antico Testamento, quando gli scrittori testimoniavano che gli uomini tentavano Dio. Nei Salmi, dove viene narrata in modo drammatico e reale il passato del popolo di Israele, il verbo tentare, lo troviamo varie volte. Nel Salmo 78 l'autore ricorda come l'Eterno abbia protetto il suo popolo per 40 anni, come abbia dato da bere e la manna da mangiare, e continua col dire: ma essi continuarono a peccare contro di lui e a ribellarsi all'Altissimo nel deserto, e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le loro voglie. E parlarono contro Dio, dicendo: potrebbe Dio imbandire una mensa nel deserto? Quante volte lo provocarono a sdegno nel deserto e lo contristarono nella solitudine. Sì, essi tentarono Dio più volte e tornarono a provocare il Santo d'Israele. Non si ricordarono più della sua potenza né del giorno in cui li aveva liberati dal nemico. Ed egli li portò così nella sua terra santa, al monte che la sua destra aveva conquistato. Scacciò le nazioni davanti a loro e le assegnò a loro in sorte come eredità, e fece abitare le tribù di Israele nelle loro tende, ma essi tentarono e provocarono a sdegno il Dio Altissimo e non osservarono i suoi statuti. Anzi, si tirarono indietro e si comportarono slealmente come i loro padri e si sviarono come un arco fallace. Lo provocarono ad ira coi loro alti luoghi e lo mossero a gelosia con le loro sculture. È molto facile leggere una cronaca del genere ed esprimere un giudizio di condanna, ma quante volte abbiamo ricevuto e riceviamo delle benedizioni di Dio come il mangiare, bere, vestirci, sorridere, per poi lamentarci, come Adamo ed Eva, per ciò che ci manca. Quante volte provochiamo a sdegno la persona amabile dello Spirito Santo con le nostre lamentele? Quante volte tentiamo la persona dello Spirito di Dio inducendola ad agire come lei non vorrebbe? Non dobbiamo sottovalutare i risultati negativi del tentare lo Spirito di Dio. Il caso di Anania e Saffira già di per sé deve farci riflettere, ma il Dio dei cristiani non sempre agisce così. Meno male, non sempre sentenzia la pena capitale, ma il più delle volte succede ciò che è successo al popolo di Israele quando era in viaggio verso la conquista della terra promessa. Quando il popolo di Dio era ai confini di Canaan, chiese di mandare 10 spie per verificare la bellezza del paese. L'Eterno acconsentì, ma in seguito le 10 persone mandate ad esplorare il paese scoraggiarono il popolo. E l'Eterno ebbe in cuore di distruggere il popolo. Ma Mosè pregò l'Eterno e leggiamo nel libro dei Numeri al capitolo 14. Allora l'Eterno disse: io perdono, come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno, e tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Il popolo di Israele non aveva tentato l'Eterno 1, 2, 3, 5, 7 volte, ma 10 volte, e a questo punto egli perse la pazienza, se così possiamo esprimersi, e decise non di distruggerli, ma di farli vagare inutilmente per il deserto 40 anni. 40 anni di inutili sofferenze, 40 anni di tempo perso, solo perché avevano tentato lo Spirito dell'Eterno, solo perché lo avevano provocato. La stessa cosa succede ad alcuni figli di Dio che tentano la persona santa dello Spirito. È vero che la vita a volte non subisce grossi traumi, come nel caso degli israeliti che continuarono a mangiare, bere, procreare, a fare i loro affari, ma la vita di tanti figli di Dio, dopo aver tentato più volte lo Spirito di grazia, diventa insipida, insulsa, mediocremente noiosa. Sono coloro che vivono ai margini della Chiesa, spettatori capaci solo di giudicare chi lavora, insoddisfatti di tutto e di tutti, e, a volte, abbandonano la fede, lasciando cuori amareggiati. Essi vagano nel deserto della vita, anziché abbeverarsi e mangiare al banchetto che Cristo Gesù ha offerto a tutti coloro che hanno posto fede in Lui. Come disse Davide, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Salmo 23, 5. Questa è la condizione di chi è condotto dalla persona dello Spirito. Se la nostra vita non è una mensa imbandita, se non è ripiena di gioia di Spirito Santo, Atti 13 e 52, non ci rimane che chiedersi se non stiamo o se non abbiamo contristato la persona dello Spirito Santo. 4. Spegnere la persona dello Spirito Santo. Spegnere la persona dello Spirito Santo sembra un atteggiamento diverso dai peccati precedenti, perché resistere, contristare, tentare sono azioni rivolte verso una persona, mentre lo spegnere è più attribuito a una cosa. Anche quando si parla di spegnere, noi pensiamo subito ad un fuoco e non a una persona. È vero che la parola di Dio presenta la persona dello Spirito Santo come un fuoco, che Mosè vide l'Eterno avvolto nel fuoco, che nel giorno della Pentecoste sui discepoli si posarono delle lingue di fuoco, ma questo aspetto non deve essere frainteso. La persona dello Spirito Santo non è un fuoco, nella stessa maniera in cui l'acqua non è bagnata. L'acqua bagna perché è acqua, così la persona dello Spirito Santo è un fuoco perché lei lo è come essenza. Quando leggiamo nel libro del Deuteronomio, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso, 4 e 24, dobbiamo prendere sul serio ciò che leggiamo. Per i nostri limiti noi siamo abituati a pensare ad un fuoco come ad un fenomeno naturale di combustione, ma esiste pure un fuoco che non è il risultato di una combustione. Infatti Mosè vide la presenza dell'Eterno in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto che bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Se Dio è un fuoco, allora dobbiamo anche vedere la persona dello Spirito Santo in questa ottica, cioè una persona né fredda né tiepida, ma piena di calore, di energia. E calore ed energia significa movimento, azione, effetto. E in questo modo che dobbiamo considerare la persona dello Spirito Santo, cioè una persona atta ad agire, a promuovere l'uomo perché la volontà di Dio sia compiuta. Non a caso la persona dello Spirito Santo viene citata più di 40 volte nel libro degli Atti degli Apostoli, un libro scritto dall'Evangelista Luca per raccontare i primi anni della Chiesa giudeo-cristiana e per dimostrare come lo Spirito di Dio sia all'opera nella vita di coloro che hanno posto fede in Gesù. In effetti la vita cristiana è riassunta in ciò che ha detto Gesù a Nicodemo: lo Spirito soffia dove vuole e tu ne odi la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Essere condotti dalla persona imprevedibile dello Spirito Santo non è un'esperienza riservata ad alcuni e significa non essere sempre in grado di prevedere la sua opera perché egli soffia, cioè manda o spinge, secondo il suo volere. Non solo. La persona dello Spirito Santo distribuisce pure a coloro che hanno posto fede in Cristo i doni come vuole. Ebrei 2, 4 a 1 Corinzi mezzogiorno e 11. Perciò, pretendere di ricevere un dono, si spegne l'opera dello Spirito Santo. In questa ottica, è evidente che ogni cosa buona che scaturisce dalla bocca e dall'agire di un uomo è il risultato dell'opera della persona dello Spirito di Cristo in lui. La vita e il messaggio dei profeti ne è un esempio. Il profeta Geremia, un uomo di Dio molto estroverso, le esperienze del quale sono un modello per chiunque, è condotto dalla persona dello Spirito Santo, ne è il classico esempio. Ecco una sua testimonianza. Tu mi hai persuaso, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me e hai vinto. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Poiché ogni volta che io parlo, grido e proclamo, violenza e saccheggio, sì, la parola dell'Eterno, è per me un motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Allora ho detto, non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome. Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Geremia 27:9. Geremia era stato chiamato ad essere un profeta da parte dell'Eterno quando ancora non si sentiva pronto, ma aveva ubbidito. Il suo messaggio incontrava opposizione da parte del popolo perché annunciava cose sgradevoli per essi, perciò il suo desiderio era quello di smettere, ma la parola di Dio nel suo cuore era come un fuoco ardente. Ancora una volta troviamo l'immagine del fuoco, o meglio l'esperienza del fuoco della persona dello Spirito, quello santo. Lo Spirito del Dio vivente non lascia in pace colui che chiama ad un servizio, lo sprona ad agire anche quando non sarebbe pronto. E questo a volte nei momenti meno opportuni. Ed ecco che quando la persona dello Spirito santo ti parla, se è notte ti devi alzare per pregare o scrivere ciò che ti ha messo in cuore, e a volte anche fino al mattino. Se guidi la macchina devi fermarti per scrivere ciò che lei ti detta. Se lavori, devi interrompere un attimo la tua attività per annotare ciò che lei ha dettato nella tua mente. E la persona dello Spirito Santo che soffia dove vuole quando vuole, e quando è lei che decide il momento e cosa. Cosa dire? Dobbiamo considerare la persona dello Spirito Santo la nostra autorità e non uno strumento al nostro servizio. Essa è una persona e non una forza o una dispensatrice di beni al quale attingiamo quando vogliamo. Siamo noi che dobbiamo dipendere dalla persona dello Spirito Santo e non lei che dipende da noi. Il compito del credente è quello di essere sempre pronto e disponibile, di ubbidire allo Spirito di Dio, sia nella cattiva che nella buona sorte. E in quest'ottica che dobbiamo leggere l'ordine di Dio di non spegnere o bloccare la persona dello Spirito Santo. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene, gli uni degli altri e quello di tutti. Abbiate sempre gioia, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. 1 Tessalonicesi 5:19. L'Apostolo Paolo sta dando degli ordini generali che onorano Dio e il suo regno. Oltre ad agire con amore verso il prossimo, ad essere sempre allegri, a pregare del continuo, a essere riconoscenti, a non disprezzare le profezie, a essere puri, egli ordina pure ai credenti di Tessalonica di non fermare la persona dello Spirito Santo. Paolo non ha specificato in che cosa consiste lo spegnere lo Spirito Santo, anche perché egli stava dettando dei principi, ma alla luce di ciò che abbiamo esaminato, è evidente che ordina ai credenti di non fermare l'attività dello Spirito nella loro vita. Com'è possibile fermare l'attività della persona dello Spirito Santo nella vita del credente? Quando si ferma o si blocca l'opera della persona dello Spirito in colui che ha posto fede in Gesù? La risposta più ovvia è quando il credente commette cose che non sono gradite a Dio, quando compie in modo palese peccati nei confronti di Dio e degli uomini, ma vi è un altro atteggiamento che può impedire l'opera dello Spirito di Dio nel cuore di un credente, ed è la trascuratezza. Di questo Paolo ne parla con il suo figlio spirituale Timoteo. Non trascurare il dono che è in te che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. 1 Timoteo 4,14. I doni che possiede il credente sono il risultato della presenza della persona dello Spirito Santo nel suo essere, perciò chi non ha i doni non possiede la persona dello Spirito, quello santo. Però non dobbiamo pensare che i doni siano qualcosa di distaccato dalla persona dello Spirito del Signore, come una mamma che regala una bambola a sua figlia. Per cui la bambola non è la mamma, ma ricevendo la persona dello Spirito il credente riceve una caratteristica dello Spirito di Dio. Questa caratteristica viene messa in evidenza dai doni che mostra e mette al servizio della Chiesa. Chi ferma l'opera della persona dello Spirito Santo compie un suicidio alla sua persona, alla sua personalità e alla potenza ricevuta per il servizio. Se la vita normale di un credente è essere condotti dalla persona dello Spirito Santo, allora fermare l'azione dello Spirito con il peccato o la trascuratezza significa togliere l'impulso divino per ogni attività nel regno di Dio. È vero che nel regno di Dio si compiono tante grandi cose, ma non tutte sono il prodotto dell'azione della persona dello Spirito Santo, ma di attività umane. Se 12 discepoli, senza i mezzi di comunicazione di oggi, radio, televisione, stampa, sono stati in grado di capovolgere la faccia religiosa della terra, cosa potrebbero fare i figli di Dio condotti dalla persona dello Spirito Santo? Se i figli di Dio non sono in grado di far udire la loro testimonianza a tutto il mondo, quale acqua si sta buttando sul fuoco di Dio che opera incessantemente? Difficile dirlo. Ma le divisioni tra i credenti, le guerre teologiche, l'amore per il denaro, il cercare di essere accolti dal sistema malvagio di questo secolo, è acqua che spegne il fuoco dello Spirito di Dio. E così l'attività della persona dello Spirito Santo viene fermata e una volta spenta, al credente non rimane che usare le proprie forze e capacità per continuare una inutile ed inefficace testimonianza. Per sua misericordia Dio continua ad operare a salvezza perché il suo braccio d'amore non si è accorciato. Ma il successo della testimonianza dei credenti non è proporzionato al loro sforzo. Se il fuoco accende, illumina, scalda, senza di esso tutto è spento, buio, freddo. Applicare questi verbi alla vita cristiana significa vivere senza iniziative, camminare senza mete, avere una comunione fraterna. Formale, fredda, significa testimoniare senza successo. Se i credenti del XXI secolo si rendessero conto quale grave danno sia quello di fermare l'azione della persona dello Spirito Santo, starebbero più attenti alla sua voce che alle reazioni delle persone. Quando i primi discepoli furono ripieni della persona dello Spirito Santo, cioè sottomessi ad essa, parlavano in lingue e gli ascoltatori pensarono che fossero ubriachi. Quando Paolo parlò agli Ateniesi lo scambiarono per un ciarlone. Quando i profeti parlavano spinti dallo Spirito Santo, 1 Pietro 1:21, spesso erano scambiati per pazzi. Nessuno di noi sa cosa può succedere quando si è condotti dall'imprevedibile persona dello Spirito Santo, perché essa può anche vietare di predicare il Vangelo in certi luoghi, Atti 16, 6-7, e spegnendola. Per un non credente vi è la perdizione, per un credente vi è una non esistenza. Chi spegne l'ardore della persona dello Spirito Santo, spegne la propria personalità. 5. Mentire alla persona dello Spirito Santo. Una persona mente quando conosce la verità e la nega. È vero che dice il falso anche colui che fa una affermazione senza saperlo che non corrisponde alla verità, come quando si sosteneva per ignoranza che il sole girava intorno alla terra. Ma questo non è propriamente mentire, è solo dire il falso inconsapevolmente. Perciò mentire è molto di più che dire il falso. È compiere l'atto consapevole e volontario di negare ciò che è evidente. Tra tutti i peccati o atteggiamenti negativi nei confronti della persona dello Spirito Santo, questo non è certamente l'ultimo in ordine di gravità. Se la persona dello Spirito di Cristo è il fuoco di Dio e colui che agisce nel cuore e nella mente delle persone, allora è evidente che l'azione di mentire è molto più frequente di quanto pensiamo. Nel Salmo 19 troviamo una testimonianza universale dello Spirito di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra, e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Nei cieli Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze, esulta come un prode che percorre la sua via. Esso sorge da una estremità dei cieli, e il suo giro giunge fino all'altra estremità. Niente è nascosto al suo calore. Dobbiamo partire dal presupposto che le cose inanimate non possono comunicare nulla all'uomo. Un sasso, una pianta, la terra, il cielo stellato, sono oggetti che non parlano, che non comunicano nulla. Come dice la parola di Dio, non hanno favella né parole. Tanto è vero che gli animali che non hanno uno spirito, come quello del Creatore, non si sono mai soffermati a contemplarli né hanno dato ad essi una certa importanza. Sono oggetti neutrali che esistono e che non comunicano nulla. Perciò, se le cose inanimate possono parlarci, se sono in grado di comunicarci qualcosa, è lo Spirito di Dio che comunica al nostro spirito il messaggio che essi devono comunicare. In questo senso il salmista dice che il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Dunque, l'incessante opera di Dio, mediante la persona divina dello Spirito Santo, è quella di far comprendere all'uomo la sua esistenza, la sua bellezza e il suo amore. Nonostante questa continua testimonianza della persona dello Spirito Santo nello spirito dell'uomo, in generale gli uomini negano questa testimonianza e, mentendo, si sono persi in vani ragionamenti. Forse non vi è nulla di meglio la descrizione che ne ha fatta l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. Romani 1, 18-23. Questa diagnosi morale e spirituale dell'atteggiamento dell'uomo nei confronti di Dio mette in evidenza come l'uomo, pur avendo conosciuto Dio, prenda una posizione di rifiuto nei suoi confronti, e piuttosto di riconoscere Dio quale creatore, ha preferito rivolgersi a favole quali l'evoluzione, o adorare esseri come loro, e addirittura, peggio di loro, come gli animali. Questo atteggiamento è mentire alla persona dello spirito di verità e dichiarare apertamente una falsità, piuttosto di riconoscere un creatore al quale deve onore e gloria. In un certo senso, rifiutare di riconoscere una divinità è anche lecito, perché l'essere umano è stato creato con il libero arbitrio, per cui usarlo per non accettare di sottomettersi rientra nel lecito, ma ciò che rende colpevole l'uomo è che deliberatamente nega l'evidenza e con un atto di volontà si rivolge a ciò che sa di essere falso. Questa è un'offesa non solo alla razionalità dell'uomo, ma anche al Creatore, che ha creato l'essere umano libero di scegliere il bene e non il male. E poiché l'uomo si sentirebbe moralmente accusato di rifiutare ogni divinità per non sentirci, in colpa si è costruito altre divinità, come la propria ragione, teorie scientifiche assurde, animali, o oggetti mortali, o limitati. Nell'episodio narrato nel libro degli Atti e riguardante i due coniugi Anania e Saffira che vendono un campo per una certa cifra e poi mentono davanti agli apostoli, ci è un verbo che i traduttori traducono differentemente, e l'azione che compiono gli sposi nei confronti della persona dello Spirito, quello santo. Alcuni traduttori rendono che Anania abbia tentato lo Spirito Santo, altri ingannato, altri ancora mentito. Nell'impossibilità di rendere ragione al testo, o nella possibilità che siano vere entrambe le versioni, una cosa è certa. Pietro, guidato dalla persona dello Spirito Santo, sapeva che non era vero e smascherò gli sposi davanti a tutti. Questo episodio fa riflettere perché io, per primo, non avrei condannato a morte una persona solo perché aveva detto una bugia. Inoltre, la bugia era stata detta mentre Anania faceva del bene. La bugia non aveva recato danno a nessuno. Se non che gli apostoli non avevano ricevuto tutto il denaro, ma una parte sì. La gravità stava nel fatto che Anania e sua moglie avevano mentito alla santa persona dello Spirito. Anania sapeva che stava mentendo quando portava il denaro ai piedi di Pietro e, contrastando la voce della persona dello Spirito Santo, ha fatto volutamente opposizione alla sua voce. Il mentire in questo caso è l'atto deliberato di fare una cosa contro il convincimento della voce della persona dello Spirito. Poniamoci alcune domande. Non abbiamo mai fatto un simile peccato. Non abbiamo mai compiuto un'opera anche quando la voce di Dio parlava insistentemente al nostro cuore? Se la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo è un peccato imperdonabile, come può essere classificato il peccato di mentire alla persona dello Spirito del Dio vivente? Certo, non si tratta di perdere la salvezza, perché essa riposa sull'opera di Cristo e non sulla nostra fedeltà, ma si perderanno inevitabilmente delle benedizioni particolari. Se non vi è una morte fisica, vi è certamente una morte spirituale, cioè una separazione da Dio. Anche questo aspetto deve essere compreso. Quando si parla di separazione da Dio, si intende di un allontanamento da Lui che non è sempre uguale. Se sono lontano 2 metri da una persona, udrò la sua voce ancora distintamente, ma se mi allontano di 20 metri, la sua voce inizia a farsi sentire di meno. Se poi mi allontano di 200 metri o 2000 metri, allora non udrò più la sua voce. Non dobbiamo sempre vedere un unico aspetto della verità, perché l'esperienza della vita ce lo impedisce. Perciò, per mantenere questa immagine, più si mente alla persona dello Spirito Santo, più ci allontaniamo da Dio e meno si sentirà la sua voce. La suefazione spirituale è uno dei mali più comuni in seno alla cristianità. Se la persona dello Spirito Santo opera incessantemente nel cuore dell'uomo, se il suo fuoco non lascia statiche le situazioni, se parla, convince, educa, riempie, corregge, allora la vita cristiana è l'esistenza più movimentata che esista. Vivere un cristianesimo trascinato è la testimonianza più evidente che si è mentito e si mente alla santa persona dello Spirito. Come l'uomo naturale vive una vita insensata, perché mente allo Spirito di Dio di arrendersi a Cristo, così il Figlio di Dio vive peggio di un non credente quando non accetta la testimonianza dello Spirito di vita nel suo cuore, trovando 1000 scuse per compiere i malsani desideri delle sue inclinazioni malvagie. In definitiva, egli ha una disonestà mentale. E disonestà mentale quando la divina persona dello Spirito Santo, tramite la parola di Dio, un fratello, una circostanza, ci convince di peccato e noi diciamo: ma lui è peggio di me. E disonestà mentale quando la santa persona dello Spirito Santo, tramite la parola di Dio, un fratello, una circostanza, ci mostra la necessità di cambiare uno scorretto atteggiamento e noi giustifichiamo il tutto con un contorto ragionamento. Mentire alla santissima persona dello Spirito di santità annulla il dono che tutti abbiamo nella capacità di saper ragionare obiettivamente, portandoci a sragionare, ci costringe ad essere disonesti nelle nostre argomentazioni. Nessun essere umano è onnisciente, nessuno può avere una risposta a tutto, ma Dio ci chiede solamente di essere onesti ed obiettivi di fronte alla testimonianza della verità. I cristiani non hanno una risposta a tutto, ma sono chiamati a riconoscere la verità. Se si inizia a mentire alla persona dello Spirito Santo, dicendo che non si ha tempo, che così non funziona, che tanto non vale la pena, che tutti fanno così, allora la suefazione è inevitabile. È più comodo adeguarsi alla massa che essere condotti dove lo spirito soffia dove vuole. È meno problematico vivere come tutti vivono che udire la voce dello spirito e non sapere da dove viene né dove va. Non sempre si mente alla persona del consolatore con l'intenzione di voler mentire, ma spesso lo si fa per non avere troppe novità e per poter ancora gestire autonomamente la vita che abbiamo donato a Cristo nel giorno della nostra resa a Dio. La persona dello spirito di gloria comprende questo nostro stato d'animo, ma non può perdonare la nostra disonestà nel dichiarare altri motivi per non ubbidirgli. Se la nostra onestà va oltre i nostri interessi, la persona dello Spirito Santo, sempre pronta ad agire, ci darà la grazia di non mentirle. 6. Oltraggiare la persona dello Spirito Santo. Il vocabolario definisce l'oltraggio come una offesa all'onore, alla dignità, al prestigio di una persona con atti o parole. Perciò, quando si oltraggia la santa e divina persona dello Spirito Santo, è un'altra ed ennesima dimostrazione che lo Spirito Santo sia una persona e non qualcosa di impersonale. Anche nella traduzione del Nuovo Mondo curata di Testimoni di Geova, benché questi affermino che lo Spirito Santo non sia una persona, è scritto che lo Spirito viene oltraggiato. Difficile per loro spiegare un verbo simile applicato ad una forza impersonale, come loro sostengono. Perciò, se possono esistere ancora dubbi sull'azione dello Spirito di Dio, perché Dio è sempre e comunque impossibile comprenderlo appieno, non vi possono essere dubbi che sia una persona. Una volta che siamo convinti dell'esistenza, non solo delle persone del Padre e del Figlio, ma anche della persona dello Spirito Santo, avremo con lei una relazione simile a quella con le altre due persone della Trinità. Per alcuni figli di Dio forse il problema non riguarda tanto l'accettazione che lo Spirito, quello Santo, sia una persona quanto proprio l'avere una reale relazione con il Padre e il Figlio. Quindi va da sé che difficilmente riescono ad averne una con la Santa Persona dello Spirito. Altri invece, guidati da movimenti mistici con sfumature cristiane, affermano di avere una relazione particolare con lo Spirito di Dio, sostenendo di essere guidati dallo Spirito Santo solo perché lo considerano un influsso di Dio in virtù del quale possono fare quello che vogliono. E sì, dimenticano volontariamente che la persona dello Spirito di Dio è chiamato Spirito Santo, proprio perché è santo. Perciò, lo Spirito di Dio non potrà mai guidare qualcuno a compiere cose contrarie alla santità di Dio, ma guida il credente in ogni verità perché non parla da se stesso, ma dice tutte le cose che ha udito e annunzia le cose a venire. Giovanni 16:13. E proprio perché lo Spirito di Dio è santo come le altre due persone della Trinità, si può resistere, contristare, tentare, spegnere, mentire, oltraggiare e bestemmiare. Questo non è solo un elenco di verbi, è la dimostrazione di come e quanto l'uomo possa avere un comportamento mediante il quale viola il diritto di una persona di essere onorata, persona tra l'altro che è Dio. L'oltraggio è superare un certo limite di comportamento morale e non riconoscere a qualcuno il valore da questo posseduto. E, in questo senso, che si è espresso l'autore della lettera agli Ebrei, riferendosi all'oltraggio nei confronti della persona dello Spirito Santo. E consideriamo gli uni gli altri, per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione», dice il Signore. E altrove: «Il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente, Ebrei 10:24-31. Si sarebbe potuto citare il solo versetto dove troviamo scritto che lo spirito viene oltraggiato. Ma senza il contesto del discorso rimane solo un'espressione incompleta e defraudata del suo valore. L'autore della lettera agli Ebrei invita i suoi lettori a incitare tutti a compiere buone opere e a frequentare la comunità nella quale sono inseriti. In seguito egli presenta una possibilità nella vita di chi afferma di credere che fa molto discutere, cioè quella di commettere dei peccati volontariamente. Chi ha posto fede in Cristo rabbrividisce di fronte ad una simile eventualità. Ogni figlio di Dio, per l'opera della persona del Santo Spirito, e non per una sua intrinseca capacità, desidera la santità, rabbrividisce al solo pensiero di commettere dei peccati. Perciò, la considerazione della possibilità di commettere dei peccati volontariamente lo abbatte ancora di più. Com'è possibile commettere dei peccati volontariamente dopo aver conosciuto la verità e creduto in Cristo? Se ci ha che è l'inclinazione di voler peccare di proposito dopo aver conosciuto la verità, si può dubitare che la persona abbia posto veramente fede in Cristo. Il peccato al quale si riferisce l'autore della lettera non è forse la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo? Sono domande lecite, che esigono risposte chiare e oneste. Abbiamo detto che la persona dello Spirito Santo è sempre all'opera nel cuore dell'uomo, stimolandolo ad amare Dio con una vita santa al suo servizio. Abbiamo considerato che lo Spirito di Dio parla, convince, educa, riempie e corregge ogni figlio di Dio. Perciò chi le resiste, chi la contrista, chi la tenta, chi la spegne o chi mente nei suoi confronti, di conseguenza pecca volontariamente verso questa persona. E a questi peccati che si riferisce l'autore della lettera, perché poco più avanti si rifà l'oltraggio nei confronti dello Spirito di Dio, partendo da un esempio della legge di Mosè. Quando era in vigore l'antico patto, afferma l'autore della lettera, un israelita che disobbediva alla legge veniva messo a morte se almeno due testimoni confermavano le sue azioni. Se l'infedeltà nei confronti del patto mosaico era punibile con la morte, cosa dire ora di chi trasgredisce un patto maggiore calpestando l'opera di Cristo, di chi ha stimato come di valore comune il sangue di Cristo e oltraggia la persona dello Spirito Santo? Con simili domande l'autore della lettera è arrivato al punto cruciale. Coloro che compiono questi tre atteggiamenti, o peccati, nei confronti di Dio, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia, Ebrei 6:6. Ricordiamo che, di questi tre peccati volontari, vi è l'oltraggio alla persona dello Spirito Santo, definito in questo passo Spirito di Grazia. È vero che il peccato è sempre peccato, cioè un comportamento odioso a Dio, ma l'oltraggio nei confronti della santa persona dello Spirito di Dio è uno degli atteggiamenti che conduce alla condanna eterna. Questo aspetto non mette tutti i peccati sullo stesso piano. Nell'Antico Testamento vi erano peccati che erano punibili con la morte, altri ricevevano solo una pena. Nel Nuovo Testamento Gesù ha dichiarato imperdonabile la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo. Perciò non possiamo ritenere tutti i peccati uguali nella gravità. Così, mentre mentire allo Spirito, resistergli, contristarlo, spegnerlo, tentarlo sono sempre peccati gravi e portano ad una aridità nella vita cristiana, oltraggiare lo Spirito di santità e avvicinarsi molto al peccato della bestemmia contro la persona dello Spirito Santo, il peccato che non è perdonabile né in questo mondo e neppure in quello a venire. Non sta certamente a noi quantificare la gravità di una colpa, ma offendere pesantemente con l'oltraggio la santa persona dello Spirito non rientra nei peccati minori. La prova che l'oltraggio alla beata persona dello Spirito Santo sia un peccato non da poco è dimostrato dall'autore della lettera agli Ebrei, che dopo aver considerato quanto sia grave continua dicendo: «Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». Il Dio d'amore dei cristiani parla di vendetta, di retribuzione a chi oltraggia la persona dello Spirito. Generalmente alcune persone sono sensibili in merito alle offese commesse nei confronti di Dio e Cristo Gesù, come la bestemmia o la dissacrazione dei luoghi di culto, ma pochi hanno compreso che i peccati contro la persona dello Spirito Santo sono puniti severamente. Questo aspetto certamente dimostra ancora una volta che lo Spirito di Dio non è una persona inferiore alle altre due, ma vi è anche un'altra ragione troppo spesso trascurata o ignorata. Il termine spirito deriva dal greco pneuma, il cui equivalente in ebraico è ruah. Mentre in italiano la parola spirito è maschile, in greco il termine è neutro, il termine originale ebraico però è al femminile. Questa precisazione potrebbe sembrare inopportuna, ma nel nostro studio è necessaria. I cristiani da sempre credono in un solo Dio sussistente in tre persone e che Cristo abbia creato un uomo e una donna ad immagine di Dio. Di solito, l'espressione che l'uomo è stato creato a immagine di Dio viene interpretata che Adamo ed Eva avevano alcune caratteristiche morali e spirituali simili a Dio. Nessun accenno al lato fisico e sessuale. Eppure è solo quando ci è un uomo ed una donna che si può dire che solo se uniti sono ad immagine di Dio. Il libro della Genesi lo afferma chiaramente. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse. E diede loro il nome di uomo, nel giorno in cui furono creati. Adamo ed Eva sono l'uomo che Dio ha creato a sua immagine. Perciò non sono solo le caratteristiche morali e spirituali di Adamo ed Eva ad essere ad immagine di Dio, ma anche le caratteristiche sessuali. Se dunque la persona dello Spirito Santo nell'Antico Testamento è nominato al femminile, nulla ci vieta, appoggiati da ciò che abbiamo preso in esame, di affermare che la persona dello Spirito Santo è la materna e femminile persona della Trinità. Per non cadere in qualche errore dottrinale, dobbiamo sottolineare che le tre persone della Trinità condividono la stessa natura, perciò tutte e tre le persone della Trinità sono paterne e materne, ma in relazione alla creatura i ruoli sono diversi. Proprio per questa visione di famiglia divina, il padre e il figlio giudicano severamente chi offende la madre al punto che chi bestemmia la persona femminile della Trinità commette un peccato imperdonabile. Colei che ci ha dato la vita e ci fa rinascere in Cristo, Giovanni 3:5, è anche ragione della nostra morte se la bestemmiamo. 7. Bestemmiare la persona dello Spirito Santo. Da un certo punto di vista non vorrei trattare l'argomento della bestemmia contro la persona dello Spirito Santo, perché non vi è nell'universo tragedia più grande che questa, ma se ne ha parlato Gesù, è indispensabile parlarne. In che cosa consiste la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo? Alcuni si sono posti l'interrogativo per curiosità, altri lo hanno dovuto affrontare per il sospetto di averlo compiuto. Altri ancora vivono con un continuo terrore di compierlo. Leggiamo in Marco 3, 20-30. Poi entrarono in una casa, e la folla si radunò di nuovo tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché, dicevano, egli è fuori di sé. Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano, egli ha Beelzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatigli a sé, disse loro in parabole, come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così, se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni, se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito, quello santo, così è in greco, non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Asseriva questo perché dicevano, egli ha uno spirito immondo. La ragione per cui le persone si pongono l'interrogativo riguardante la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo è evidente.

Un compito della persona del Santo Spirito è convincere gli uomini riguardo al peccato, alla giustizia e a giudizio. Tutti gli uomini, prima o poi, sono convinti di peccato perché non credono in Gesù. Sono convinti che tutto ciò che la Scrittura dichiara di Gesù sia vero. Sono convinti che il diavolo abbia partita persa. Con questa persuasione l'uomo ha due sole possibilità: o attribuire la convinzione a Dio, riconoscendo di peccare perché non crede in Gesù, oppure pensare che tale convinzione sia il risultato della propria opinione o di altro, e, in questo modo, rifiutare l'opera di convincimento della persona dello Spirito della Trinità. Con questo atteggiamento l'uomo bestemmia contro la santa e divina persona dello Spirito di grazia e di verità. Dopo questo rifiuto da parte dell'uomo per Dio non vi è altra opera che possa salvare la sua creatura. Dopo che il Padre ha dato il suo Figlio unigenito per morire in croce, dopo che il Figlio ha dato la sua vita come riscatto per chiunque crede in Lui, dopo che la persona dello Spirito Santo applica al cuore dell'incredulo queste verità, cosa può fare il Dio Trino? Si può portare l'asino alla fonte, ma non si può obbligarlo a bere. L'uomo ha la libertà di scegliere la vita eterna, ma con la stessa libertà può scegliere anche la morte. La morte eterna e la vita eterna non sono predestinate a nessuno, perché l'Eterno non trova piacere della morte dell'empio ma che si converta. Ezechiele 18 e 23. Ne consegue che esse sono da scegliere. Nell'esaminare la bestemmia contro la beata persona dello Spirito Santo, abbiamo toccato l'orrendo fondo degli atteggiamenti negativi e offensivi nei confronti dello Spirito di Dio il Consolatore. La persona dello Spirito Santo si può resistere, cioè impedirle di compiere un'opera in noi, si può contristarla con un cammino non conforme alla verità, si può tentarla obbligandola a compiere ciò che non desidera, si può spegnerla quando ostinatamente vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, le si può mentire quando intellettualmente siamo disonesti, si può oltraggiarla offendendo la sua persona, ma quando si arriva a bestemmiarla, allora non vi è più via di scampo. E poiché i cristiani da sempre credono in un Dio Trino di amore, di misericordia, di bontà, è molto difficile credere che l'uomo vada in perdizione così per caso o per un peccato di debolezza, ma è da credere che prima di avere un atteggiamento imperdonabile, l'uomo precedentemente abbia commesso gli altri peccati contro la persona dello Spirito Santo. Nessuna cosa si forma all'improvviso, ma occorre del tempo. Anche la tenera argilla si trasforma nella dura creta, ma pian piano. Anche l'acqua si trasforma in ghiaccio, ma non all'improvviso. Anche un divorzio non arriva a ciel sereno. Così, se vi sono dei cuori duri, cuori di ghiaccio, nei confronti del messaggio del Vangelo, cuori di credenti separati dal Creatore, non è che siano nati così, non è che non abbiano ricevuto la chiamata o che non siano stati invitati alle nozze di Cristo. Ma compiendo ogni giorno resistenza alla voce della persona dello Spirito Santo, compiendo nei suoi confronti varie serie di peccati, essi sono diventati insensibili al punto di non udire, né vedere più l'opera della Trinità mediante il suo Spirito. Purtroppo la Chiesa di Cristo ha sottovalutato la persona e l'opera dello Spirito Santo, ha dimenticato che le cose che l'occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano e che Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. 1 Corinzi 2, 9, 10. Senza la persona e l'opera dello Spirito Santo siamo drammaticamente soli e incapaci di comprendere la Trinità. L'uomo sarebbe condannato alla più disperata solitudine, ma mediante la persona materna e femminile dello Spirito, come una madre, siamo ammaestrati, perché ella ci fa comprendere le Scritture. 1 Corinzi 2, 10. Le persone della Trinità. 1 Corinzi 2, 11. Siamo condotti del continuo verso il Padre, siamo consolati, sfamati, portati a contemplare il Figlio di Dio. Giovanni 15 e 26. Per lo Spirito noi abbiamo la mente di Cristo. 1 Corinzi 2 e 16. Che io possa abbandonarmi completamente alla beata e amata persona dello Spirito Santo. Efesini 5 e 18. novembre 2004. Ellero.